Nell'interpretazione di Ezio De Marco, eccovi la canzone Torne, musicata da Adelmo Antoniazzi, su parole di Bruna Antoniazzi in Dodorico. Di mattina d'ore sin le ciampanute che riguarda il mio amor che partì lontan, lui mi ha dite tornerà. Anche un dì al tornerò, io contente sarai. Torne, amor, alto Friul, la blu i biele fiare che esista al La giovane cantante Franca Leonarduzzi presenta la composizione di Carlo Conti su versi di Guido Michelutti, dal titolo I Amorins. Thank you. E il Calypso Furlan, musicato da Adelmo Antoniazzi, verrà cantato da Franco Coccolo. Del Calypso na sud estaiare, se si luciante si senna musiche, che mette in cura allegria e buon umor. Chi del Calypso dell'amor, ogni contrade dà sempre un buon umor, le frutti spieli si senti in un batticor, da sempre un aiar di tante gioventù, di chi ste musico te chi. Chi ste biele furlanie, aie sempre in allegrie, di fruttati sbieri son, che sorridin come flor, so chi cil di primavere, a chiattare frutte biere, dove facile dire sì, finché s'inculì. Ste biele furlanie, aie sempre in allegrie, di frutati sbieri son, che sorridin come flus, so chi cil di primavere, a chattare frutte biere, dove facile di sì, finché s'inculì. Dove facile, dove facile a dire sì. A voi, cari amici in ascolto, giudicare se queste canzoni d'oggi, che il pubblico ha giudicato fra le migliori presentate, possono avere il merito di stare degnamente accanto alle semplici e melodiche villotte del passato. Thank you. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 70ª trasmissione dedicata agli emigrati, a cura di Ermete Pellizzari, orchestra diretta dal maestro Bruno Sebastianotto.